scatola attorno, di posto non ne avrò. Finché mi ritengo un pessimo esempio, di certo non guarirò. Ci unisce un senso di precarietà e la voglia di vacillare, l'umore denso di fragilità e la voglia di farci del male. Che diamine non so accettare se né credere che sei parte di me, parte di me, se sei l'arte di me, di me. Parte di me, parte di me, tu sei l'arte di me, di me. E mi accorgo solamente adesso che restare un poco senza me stesso è magico. Mi credono un pazzo, piuttosto distratto, un individualista. Del resto purtroppo anticipo troppo, sono l'apripista. Voglio il doppio di te, resta attorno al mezzo di me, sopra un Kleenex, due lacrime che non evaporano mai. E che diamine non so accettare se né credere che sei parte di me, parte di me, se sei l'arte di me, di me. Sei l'arte di me, di me. E mi accorgo solamente adesso che restare troppo insieme a me stesso è tragico. Che restare un poco senza me stesso è magico.